Balstrò portò la candela al capezzale di Raffles, il quale era evidentemente in preda a un brutto sogno. Rimase muto, nella speranza che la luce servisse a destare il dormiente poco a poco, e con dolcezza perché temeva che questi facesse qualche rumore in seguito a un risveglio troppo improvviso. Osservava da un paio di minuti o più i brividi e il respiro affannoso che sembrava probabile terminassero nel risveglio. Allorché Raffles, con un lungo gemito semisoffocato, balzò a sedere e si guardò attorno terrorizzato, tremante e ansimante. Ma non fece altro rumore e Balstrò, posata la candela, attese che si riavesse. Passò un quarto d'ora prima che Balstrò, con un fare freddo e perentorio mai mostrato in precedenza, disse: «Sono venuto a chiamarvi così presto, Miss Raffles, perché ho ordinato che la carrozza fosse pronta alle 7:30 e intendo condurvi io stesso fino a Easley, dove potrete prendere il treno o aspettare una diligenza». Raffles stava per aprire bocca, ma Balstrò lo precedette con fare imperioso dicendo: «Tacete, signore, e ascoltate quello che ho da dirvi. Ora vi darò del denaro e vi farò avere una somma ragionevole, di tanto in tanto, quando me lo chiederete per lettera. Ma se preferite presentarvi qui di nuovo, se tornerete a Middlemarch, se adopererete la vostra lingua per danneggiarmi, vi toccherà vivere dei frutti che la vostra malvagità vi potrà procurare senza alcun aiuto da parte mia. Nessuno vi pagherà bene per macchiare il mio nome. So fino a che punto potete farmi del male e io lo affronterò se oserete attaccarmi di nuovo. Alzatevi, signore, fate come vi ordino, senza rumore, altrimenti manderò a chiamare un poliziotto che vi porti via dalla mia casa e voi potrete andare a raccontare le vostre storie in ogni birreria della città. Ma da me non avrete nemmeno un soldo per pagare le spese che ci farete». Di rado, in vita sua, Balstrò aveva parlato con tale concisa energia. Durante gran parte della notte aveva architettato questo discorso e pensato ai suoi probabili effetti. E sebbene non fosse certo che lo avrebbe definitivamente messo al sicuro da altri ritorni di Raffles, era giunta alla conclusione che era la mossa migliore che potesse fare. Quella mattina riuscì a imporre la sottomissione a quell'uomo sfiancato. Il suo organismo avvelenato in quel momento fu preso dallo sgomento di fronte all'atteggiamento freddo e risoluto di Balstrò e venne portato via silenziosamente in carrozza prima dell'ora in cui la famiglia faceva colazione. I servi pensarono che si trattasse di un parente povero e non si sorpresero del fatto che un uomo rigido come il loro padrone, che girava a testa alta fra la gente, si vergognasse di un simile cugino e volesse sbarazzarsene. La scarrozzata di 10 miglia del banchiere assieme all'odiato compagno diede uno squallido inizio alla giornata di Natale, ma al termine della corsa Raffles era tornato di buon umore e si separò dal banchiere con un'allegria ben giustificata dal fatto che questi gli aveva dato 100 sterline. Vari motivi spingevano Balstrò a questa generosità, ma egli non li prese attentamente in esame tutti. Mentre era intento a osservare Raffles nel suo sonno agitato, gli era certamente passato per il capo il pensiero che la salute dell'uomo si era assai deteriorata dal tempo di quel primo dono di 200 sterline. Si era premurato di ripetere la ferma risoluzione di non farsi più sfruttare e aveva tentato di far ben capire a Raffles il fatto di avergli mostrato che i rischi di comprare il suo silenzio col denaro erano assolutamente pari ai rischi di sfidarlo. Ma quando, liberato dalla sua presenza repellente, Balstrò tornò alla sua tranquilla dimora, non si portava in cuore alcuna sicurezza di essersi assicurato qualcosa di più di un momento di respiro. Era come se avesse fatto un sogno disgustoso e non riuscisse a liberarsi dalle sue immagini, col loro odioso strascico di sensazioni, come se un rettile pericoloso avesse lasciato sul gradevole ambiente della sua vita le proprie viscide tracce. Chi può sapere quanta parte della propria vita interiore sia costituita dalle opinioni che a suo parere gli altri uomini hanno di lui, finché quell'edificio di giudizi è minacciato dalla rovina? Balstrò fu ancora più consapevole che nella mente della moglie era entrato uno sgradevole presentimento, solo perché lei evitò con cura ogni allusione ad esso. Era stato abituato a sentire ogni giorno il sapore della supremazia e il tributo della deferenza assoluta e la certezza di venire osservato, misurato, col sospetto celato che avesse qualche segreto disonorevole, gli faceva tremare la voce quando parlava di una vita edificante. La preveggenza, per uomini dal temperamento ansioso di Balstrò, è spesso peggiore del vedere, e la sua fantasia intensificava continuamente l'angoscia di un disonore imminente. Sì, imminente, Perché se l'aver sfidato Raffles non avesse tenuto costui lontano e sebbene pregasse perché ciò accadesse, non ci sperava affatto. Il disonore era certo. Inutilmente si diceva che se ciò fosse stato permesso si sarebbe trattato di una punizione divina, di un castigo, di una preparazione. Egli si ritraeva dalle fiamme che immaginava e giudicava che sfuggire al disonore doveva giovare di più alla gloria divina. Questo bisogno di ritrarsi, infine, lo aveva spinto a compiere dei preparativi per lasciare Middlemarch. Se su di lui si doveva venire a sapere una disgustosa verità, allora si sarebbe trovato a una distanza meno scottante dal disprezzo dei suoi amici di un tempo e in un nuovo ambiente dove la sua vita non avrebbe avuto la stessa intensa suscettibilità, il carnefice, se lo avesse eseguito, sarebbe stato meno temibile. Lasciare la città, infine, lo sapeva, sarebbe stato estremamente doloroso per la moglie e per altri motivi gli avrebbe preferito restare dove aveva messo radici. Perciò dapprima fece i preparativi in modo non definitivo, desiderando lasciarsi aperta da ogni parte la possibilità di un rientro dopo una breve assenza, se un qualche intervento favorevole della provvidenza fosse intervenuto a dissipare i suoi timori. Si stava preparando a cedere la direzione della banca e a rinunciare a qualsiasi controllo attivo su altre attività commerciali del luogo, adducendo a motivo la salute malferma, ma senza escludere una futura ripresa di un tale lavoro. Questa misura gli sarebbe costata ulteriori spese e una certa diminuzione delle entrate, oltre a quella che aveva già subito per la generale recessione del commercio. E l'ospedale si presentava come uno dei principali oggetti di spesa su cui poteva economizzare in buona maniera. Questa era stata l'esperienza che aveva provocato la sua conversazione con Lydgate, ma in questo momento i suoi preparativi per lo più non erano andati oltre uno stadio in cui poteva annullarli se si dimostravano inutili. Rimandava continuamente il passo finale, in preda ai suoi timori, come molti uomini in pericolo di fare naufragio o di venire scaraventati fuori dalla carrozza da dei cavalli imbizzarriti. Non si liberava dall'impressione che sarebbe accaduto qualcosa a impedire il peggio e che rovinarsi la vita con un tardo trasferimento avrebbe potuto essere precipitoso. In particolar modo perché era difficile dare alla moglie delle spiegazioni soddisfacenti sul progetto del loro esilio, della durata indefinita, dall'unico luogo in cui a lei sarebbe piaciuto vivere. Fra le faccende di cui Balstrò doveva occuparsi nel caso di una sua assenza c'era la direzione della fattoria Stonecourt. E per questa, come per tutte le altre questioni riguardanti case e terreni che possedeva Middlemarch nei dintorni, si era consultato con Caleb Garth. Come qualche altra persona che avesse un'attività di quel genere, egli desiderava trovare la gente a cui stessero più a cuore gli interessi del padrone che i propri. Riguardo a Stonecourt, poiché Balstrò desiderava mantenere il suo controllo sulla produzione e giungere a un accordo per cui potesse, se voleva, riprendere il passatempo prediletto di supervisore, Caleb lo aveva consigliato di non fidarsi di un semplice amministratore, ma di affittare terra, bestiame e attrezzi anno per anno e prendersi una parte adeguata del ricavato. «Posso contare su di voi per trovarmi un affittuario a queste condizioni, Gert?» chiese Balstrò. «E mi direte la somma annuale che gradireste per dirigere queste faccende che abbiamo discusso assieme?» «Ci penserò», disse Caleb col suo fare reciso. «Vedrò come posso portare a termine la cosa». Se non fosse stato per il fatto che doveva pensare al futuro di Fred Vincey, probabilmente Mr. Garth non avrebbe gradito in qualsiasi appesantimento del proprio lavoro che la moglie temeva sempre potesse essere eccessivo con il passare degli anni. Ma nel lasciare Balstrò dopo quella conversazione gli passò per il capo un'idea assai allettante a proposito del suddetto affitto di Stonecourt. E se Balstrò avesse acconsentito a metterci Fred Vincey, a patto che lui, Caleb Garth, fosse responsabile della direzione? Sarebbe stato un ottimo addestramento per Fred, ci avrebbe potuto ricavare un modesto reddito e gli sarebbe rimasto ancora tempo per imparare, aiutandolo in altre faccende. Fece cenno all'idea a Mrs. Gerth con un tale evidente compiacimento che lei non ebbe il cuore di guastargli il piacere, esprimendo il proprio costante timore che prendesse troppi impegni. Il ragazzo sarebbe contento come una Pasqua, gli disse buttandosi contro lo schienale della sedia con un aspetto radioso, se potessi dirgli che è tutto sistemato. Pensa, Susan, aveva sognato quel posto per anni prima che il vecchio Thurston morisse e le cose prenderebbero proprio una bella piega se potesse tenere il posto in modo industrioso, tutto sommato dedicandosi agli affari. Perché è assai probabile che Balstrò lo lascerebbe andare avanti e con l'andare del tempo gli venderebbe il bestiame. Non ha ancora deciso, lo vedo, se stabilirsi permanentemente altrove oppure no. In vita mia non ho mai avuto un'idea che mi piacesse di più. E allora i ragazzi potrebbero sposarsi subito, Susa. Non vorrei accennare minimamente del piano a Fred finché non sarei sicuro che Balstrò sarebbe d'accordo, fece Mrs. Gerth in tono di tenero ammonimento. E quanto al matrimonio, Caleb, non è necessario che noi vecchi lo affrettiamo. Oh, non lo so, disse Caleb dondolando la testa da un lato. Il matrimonio serve ad domare. Fred avrebbe meno bisogno che lo frenassi e lo guidassi io. Comunque non dirò niente finché non conoscerò bene il terreno. Parlerà di nuovo a Bulstrode. Alla prima occasione lo fece. Bulstrode era tutt'altro che interessato al proprio nipote Fred Vincy, ma nutriva il forte desiderio di assicurarsi i servigi di Mr. Gert per molte faccende disparate, in cui era certo di perderci in misura considerevole se fossero state curate da una persona meno coscienziosa. Per questo motivo non oppose alcuna obiezione alla proposta di Mr. Gert. Per di più c'era un altro motivo per cui non gli spiaceva concedere un consenso che doveva andare a vantaggio di uno della famiglia Vincy. Il fatto era che Mrs. Bulstrode, venuta a conoscenza dei debiti di Lydgate, si era mostrata ansiosa di sapere se il marito non potesse far qualcosa per la povera Rosamond ed era rimasta assai turbata nell'apprendere da lui che la situazione di Lydgate era difficilmente rimediabile e che la cosa più saggia era di lasciare che seguisse il suo corso. Mrs. Bulstrode aveva allora detto per la prima volta: «Penso che siate sempre un po' severo verso la mia famiglia, Nicholas, e sono certa di non avere alcun motivo per rinnegare nessuno dei miei parenti. Troppo mondani, può darsi che lo siano, ma nessuno ha mai avuto ragione di dire che non fossero rispettabili». «Mia cara Harriet», disse Mr. Bulstrode, sussurrando sotto gli occhi della moglie che si stavano colmando di lacrime, «ho fornito a vostro fratello una grande quantità di denaro. Non ci si può aspettare da me che mi prenda cura dei suoi figli sposati». Ciò sembrava corrispondere a verità e le rimostranze di Mrs. Bulstrode si placarono, riducendosi a un senso di compassione per la povera Rosamond, della cui dispendiosa istruzione lei aveva sempre previsto le conseguenze. Ma il ricordo di quel dialogo, Mr. Bulstrode pensò che quando avrebbe dovuto illustrare per esteso alla moglie il suo progetto di abbandonare Middlemarch, sarebbe stato lieto di dirle che aveva dato delle disposizioni che avrebbero potuto giovare al nipote Fred. Al momento si era limitato a dirle che pensava di chiudere The Shrubs per alcuni mesi e di prendere una casa sulla costa meridionale. Perciò Mr. Gerth ottenne l'assicurazione che desiderava, vale a dire che nel caso che Mr. Bulstrode avesse lasciato Middlemarch per un periodo di tempo indeterminato, questi avrebbe permesso a Fred Vincy di prendere Stonecourt in affitto alle condizioni proposte. Caleb fu così entusiasmato dalla speranza che la situazione sarebbe giunta a una svolta decisiva che per il suo autocontrollo non fosse stato rinforzato da un piccolo rimprovero affettuoso della moglie. Avrebbe rivelato tutto a Mary nel desiderio di confortare la sua bambina. Tuttavia si frenò e tenne Fred accuratamente all'oscuro di certe visite che stava facendo Stonecourt allo scopo di indagare più minuziosamente sullo stato delle terre del bestiame e giungere a una valutazione preliminare. Certo era più impaziente di queste visite di quanto la probabile rapidità della successione degli eventi richiedesse, ma era stimolato dalla gioia paterna di dedicare la propria mente a questo pizzico di probabile felicità che teneva in serbo come un dono nascosto di compleanno per Fred e Mary. «Ma supponiamo che tutto il progetto si riveli un castello in aria», disse Mrs. Gerth. «Beh, beh», rispose Caleb, «il castello non cadrà sul capo di nessuno». Capitolo 69. Mr. Bulstrode era ancora seduto nel suo ufficio di direttore alla banca, all'incirca alle 3 dello stesso giorno in cui aveva ricevuto Lydgate, quando l'impiegato entrò per dire che il cavallo era pronto, inoltre che Mr. Gerth era fuori e chiedeva di parlargli. «Ma certamente», disse Bulstrode, e Caleb entrò. «Vi prego, sedetevi, Mr. Gerth», proseguì il banchiere con tono più affidabile. «Sono lieto che siate arrivato proprio in tempo per trovarmi qui. So che avete i minuti contati». Oh, fece Caleb in tono gentile, volgendo lentamente il capo da un lato mentre si sedeva e posava il cappello sul pavimento. Guardò a terra, piegandosi in avanti e lasciandosi dondolare fra le gambe le lunghe dita, mentre ogni dito si muoveva in successione, come se fosse a parte di un qualche pensiero che gli riempiva l'ampia fronte tranquilla. Mr. Bulstrode Come chiunque altro che conoscesse Caleb, era abituato alla sua lentezza nel cominciare a discorrere di qualsiasi argomento che riteneva importante, ed era assai incline ad aspettarsi che fosse sul punto di riparlare dell'acquisto di alcune case situate a Blindham Scour allo scopo di abbatterle, come sacrificio di una proprietà che sarebbe stato ben ripagato dall'afflusso di aria e di luce in quel luogo. Era con proposte di questo genere che Caleb talvolta si rendeva importuna ai suoi datori di lavoro. Ma di solito aveva trovato Balstrow pronto ad approvare i suoi progetti di migliorie ed erano andati d'accordo. Quando riprese a parlare, tuttavia, fu per dire con voce piuttosto sommessa: «Vengo proprio ora da Stoncourt, mister Balstrow». «Non avete trovato nulla che non va, spero», disse il banchiere. «Ieri ci sono stato anch'io. Abel ha fatto un buon lavoro con gli agnelli quest'anno». «Beh, sì», fece Caleb, alzando gli occhi con aria grave. «C'è qualcosa che non va». «Un forestiero che sta molto male, credo. Vuole un dottore, io sono venuta a dirvelo. Si chiama Raffles». Notò la scossa che le sue parole provocarono in tutto il corpo di Balstrode. A proposito di questo argomento, il banchiere aveva creduto che i propri timori fossero troppo continuamente sul chi vive per essere preso alla sprovvista, ma si era sbagliato. «Povero disgraziato», disse in tono compassionevole, sebbene le labbra gli tremassero leggermente. «Sapete com'è capitato là?» «Ce l'ho portato io», disse Caleb con aria tranquilla. «L'ho raccolto nel mio calesse. Era sceso dalla diligenza e stava camminando un po' oltre la svolta dopo il casello del pedaggio e l'ho raggiunto. Si ricordava di avermi visto assieme a voi una volta in precedenza a Stoncourt e mi ha chiesto di farlo salire. Ho visto che stava male, mi è sembrata la cosa giusta da fare, portarlo sotto un tetto. E adesso penso che non dovreste perdere tempo a chiedere consigli per la sua salute». Nel terminare, Caleb raccolse il cappello dal pavimento e si alzò lentamente. «Certamente», disse Balstrow, per la cui mente in quel momento passavano mille pensieri. «Forse mi fareste voi stesso il favore, Mr. Gath, di passare da Mr. Lydgate lungo la strada? No, restate. A quest'ora probabilmente è all'ospedale. Per prima cosa ci manderò immediatamente il mio uomo a cavallo con un messaggio e poi io stesso mi recherò a cavallo fino a Stoncourt». Balstrow stilò in fretta un biglietto e uscì di persona per affidare l'incarico al suo uomo. Quando tornò, Caleb era in piedi come prima, con una mano sulla spalliera della sedia e il cappello nell'altra. Nella mente di Balstrow il pensiero dominante era: forse Raffles ha parlato a Garth solo della sua malattia. Garth può darsi che si stupisca, come deve aver fatto in precedenza, del fatto che questa persona malfamata pretenda di essere in confidenza con me. Ma non sa nulla ed è mio amico. Posso essergli utile. Desiderava ardentemente una qualche rassicurazione su questa fiduciosa congettura, ma porre una qualsiasi domanda in merito a quanto Raffles aveva detto o fatto avrebbe significato palesare un timore. «Vi sono estremamente obbligato, Mr. Garth», disse col suo consueto tono cortese. «Il mio impiegato sarà di ritorno fra pochi minuti e allora andrò io stesso a vedere cosa si può fare per questo disgraziato. Forse volevate parlarmi di questo? Se è così, sedetevi». «Grazie», disse Caleb facendo un piccolo gesto con la mano sinistra per rifiutare l'invito. «Voglio dire, Mr. Bastrow, che devo chiedervi di affidare i vostri affari a qualcun altro che non sia io. Vi resto obbligato per la generosità con cui mi siete venuto incontro a proposito dell'affitto di Stoncourt e di tutte le altre faccende, ma devo rinunciarvi». Un'acuta certezza trafisse l'animo di Balstrow come una pugnalata. «Che decisione improvvisa, Mr. Garth», fu tutto ciò che gli riuscì di dire in un primo momento. «È vero», disse Caleb, «ma è assolutamente irrevocabile. Devo rinunciarvi». Parlava con una fermezza piena di grande gentilezza, eppure vide che Balstrow sembrava farsi piccolo piccolo davanti a quella dolcezza. Il suo volto aveva un aspetto asciutto e gli occhi rifuggivano dallo sguardo che si posava su di lui. Caleb provò una profonda compassione per l'uomo, ma non sarebbe potuto ricorrere ad alcun pretesto per spiegare la propria decisione, anche se tale pretesto sarebbe potuto servire a qualcosa. «A questo ci siete stato portato, mi pare di capire, da qualche calunnia espressa nei miei confronti da quel miserabile», disse Balstrow, ansioso a questo punto di conoscere quanto più poteva. «È vero, non posso negare di agire in base a quello che ho sentito da lui. Mi Voi siete una persona coscienziosa, Mr. Gert, un uomo spero che si sente responsabile davanti a Dio. Non vorreste farmi del male precipitandovi a credere a una calunnia? Disse Balstrow, cercando giustificazioni che potessero essere adatte alla mentalità del proprio ascoltatore. È un misero motivo per troncare un rapporto che, penso di poter dire, sarà vantaggioso per entrambi. Non vorrei fare del male a nessuno se potessi, disse Caleb, persino se pensassi che Dio ci potesse passare sopra. Spero che avrai comprensione per il mio prossimo. Ma, signore, sono obbligato a credere che questo Raffles mi abbia detto la verità e io non potrei gioire a lavorare con voi o avvantaggiarmi col vostro aiuto. Mi fa male all'anima. Devo pregarvi di cercare un altro agente. Molto bene, Mr. Garth, ma devo almeno pretendere di sapere le cose peggiori che vi ha raccontato. Devo conoscere qual è l'infamia di cui sono obbligato a essere la vittima. Disse Balstrow mentre una certa dose di rabbia cominciava a mescolarsi col suo senso di umiliazione davanti a quest'uomo tranquillo che rinunciava ai propri vantaggi. Non ce n'è bisogno, disse Caleb agitando la mano e piegando leggermente il capo, senza scostarsi dal tono in cui c'era la pietosa intenzione di risparmiare quest'uomo degno di compassione. Quello che mi ha detto non mi uscirà mai dalle labbra, a meno che non mi venga strappato da qualcosa per ora me sconosciuto. Se avete condotto una vita cattiva per amore del guadagno e avete escluso altri dai propri diritti con l'inganno per accumulare di più per voi, presumo che ve ne pentiate. Desiderereste disfare il fatto e non potete. Questa deve essere una grande amarezza. Caleb si fermò un momento e scosse il capo. Non sta a me rendervi la vita più difficile. Ma lo fate? Me la rendete davvero più difficile, disse Balstrow, costretto a un sincero grido di implorazione. Me la rendete più difficile volgendomi le spalle. Ci sono obbligato, disse Caleb con ancora maggiore gentilezza sollevando la mano. Mi spiace. Io non vi giudico e non dico lui è malvagio, io sono giusto. Dio me ne guardi. Io non so tutto. Uno può fare del male, la sua volontà può uscirne pulita, sebbene non riesca a rendere pulita la propria vita. È una brutta punizione. Se questo è il vostro caso, beh, mi duole per voi, ma dentro di me sento di non poter continuare a lavorare con voi. È tutto, Mr. Balstrow. Tutto il resto è sepolto, per quanto dipende da me. E vi saluto. Un momento, Mr. Garth, disse Balstrow in gran fretta. Allora posso contare sulla vostra solenne assicurazione che non ripeterete né a un uomo né a una donna ciò che, anche se contenesse un qualche grano di verità è tuttavia una malvagia asserzione. Caleb fu scosso dall'ira e disse con aria indignata: Perché lo avrei detto se non avessi parlato sul serio? Non mi fate paura. Storie come quelle non tenteranno mai la mia lingua. Scusatemi, sono agitato, sono vittima di quest'uomo dissoluto. Un momento. Dovete considerare piuttosto se non avete contribuito a renderlo peggiore quando avete approfittato dei suoi vizi. Mi fate torto a credergli troppo precipitosamente, disse Balstrow, oppresso, come in un incubo, dall'incapacità di negare recisamente ciò che Raffles poteva aver detto, e tuttavia considerò una scappatoia il fatto che Caleb non glielo avesse riportato in modo da chiedergli una netta confutazione. No, disse Caleb sollevando la mano con aria di disapprovazione, sono pronto a credere diversamente quando una cosa diversa sarà dimostrata. Non vi privo di nessuna occasione favorevole. Quanto a parlarne, ritengo sia un delitto denunciare il peccato di un uomo a meno che non abbia la certezza di doverlo fare per salvare l'innocente. Questo è il mio modo di pensare, Mr. Balstrow, e su quello che dico non ho bisogno di giurarci. Vi saluto.